Io, con lo spirito guerriero, sono giornalista. So cogliere le sfumature più enigmatiche. Sono condizionato dalla conoscenza. Uomo di sterco. Come un vecchio decrepito filologo, mi cimento a ritrovare la pace dell'anima. Lo spirito geloso nella solitudine partorisce nevrosi religiose, anomalie sessuali, delicate mansuetudini animalesche. Mi sforzo lungo le strade d'elevarmi ai lampioni con l'orribile sdoppiamento della psiche, parsimonioso, con una gran voglia di callipige ed imparare un mestiere pedestre. Al telefono un paio di foglietti. Scrivo quello che uno mi dice come in dormiveglia. C'è clamore di gente, la musica della redazione è discorde. Poi, all'improvviso, si allarga a macchia d'olio, diviene grandiosa sinfonia. Tutti battono i tasti delle macchine per scrivere. Ognuno suona uno strumento diverso. Mani tese, nervose, disarticolate, fogli strappati, bestemmie. Gli orchestrali. Lo abbiamo liquidato. Lei a Roma? Mi dica, caso di morte? La commissione dei sei si è riunita. Il presidente della giunta provinciale, Silvius Magnago, vuole un altro raduno a Castel Firmiano. Vogliamo l'approvazione di altre norme del pacchetto. L'Austria si è fatta garante. La forma è un fiore. Io grido, ogni cippo divisorio è una proprietà, è barocco, lei non capisce niente. Mi dondolo sulla sedia, il rumore assume toni maestosi, ci captiamo l'uno l'altro, ammettiamo la nostra vicinanza, difendiamo il nostro spazio vitale con gli artigli della prossemica. La forza caparbia concorre a farci sopportare. Ci sporgiamo dalle scrivanie, dinoccolati come scimmie, i corpi grottescamente rovesciati, epilettici, curvati come vecchi arteriosclerotici. Telefoniamo sfrucunando le cavità nasali, incuranti degli sguardi altrui, le espressioni severe, a tratti sofferenti. Così ricamiamo il tempo con la continuità del nostro esasperante lavoro. Imprigionati nella roboante confusione redazionale, scandiamo il ritmo delle umane parole. Vita notturna. Risuonano voci secche e rabbiose. Si incontrano gli spedizionieri. Iniziano il turno di notte. Occhi grifagni, lavoratori tenaci, teste minuscole, tonde, quadrate, ovali, bislunghe, brachicefale, bionde, grigie, canute, pelate, modi impetuosi, passi quasi marziali o strascicati. Le rotative schiaffeggiano il silenzio con il proprio verso, rutilanti suoni, gridi d'arpie. Tutto è così definito, questo Tananai indefinito. Nel Bailam sorge il destino di un nuovo giorno. Domani da quei fogli sapremo cosa è successo nel mondo, chi c'è ancora e chi è scomparso. È una farsa continua. Visito con gli occhi tutti quelli che incontro. Mi sembrano esseri fantomatici. Comparse di un sogno. Io sono un estraneo, non loro. Raccolgo le sensazioni del mio io ribelle. Franz Kafka ama l'odore della carta di giornale. La sniffo come la droga. Mi inebrio di quell'ineffabile sentore di petrolio. È come ficcare il naso tra le mutandine di una callipigia centometrista. E la rotativa è come un treno che non finisce mai di passare. La fermano solo per taccheggiarla quando il carattere non è bene impressionato sulla carta. Non c'è malafede. Credo nel giornalismo, anche se sopra vi costruisco pamphlet. Non è abitudine, amore per l'abitudine, ma amore per l'amore. Vorrei stendermi sotto i cilindri della rotativa, uscirne fuori stirato come un foglio di giornale, trasformato in una pagina di quotidiano, vivere un giorno e poi morire in un contenitore di rifiuti. Qualcosa di me resterebbe vivo nelle raccolte di giornali, per dirla in modo più solenne, nelle emeroteche. Ecco, buonasera. Io semplicemente volevo introdurre un attimo, riallacciandomi anche a quanto è già stato letto. Sanno che l'autore non è presente, è causa malattia, idem vale per il correlatore che il mio collega, appunto, professor De Marchi, che non è presente per lo stesso motivo. Poi su questo un altro codicillo, diciamo, ma più tardi. Come hanno sentito e percepito, diciamo, dalla lettura interpretativa significativa, peraltro degli amici Grazia dell'Aquila e Patrizio Zindaco, si tratta di una prosa che così, ha degli stilemi molto particolari, cioè a dire un ductus narrativo che non è sequenziale, cioè un avvenimento non diciamo non viene prima di un altro, non è necessariamente legato cronologicamente o logicamente all'altro. Spesso c'è un procedimento prolettico, cioè a dire ci sono delle prolessi, ci sono delle anticipazioni di quanto dopo verrà esposto. Ecco, delle, potremmo dire così, delle premonizioni, dei flash che guardano oltre. È una prosa estremamente stimolante. Prima una breve intervista radiofonica, il giornalista, in occasione appunto di una breve intervista radiofonica, il giornalista mi ha chiesto come definirebbe brevissimamente il testo. È imbarazzante, anche se è un romanzo, viene anche dichiarato come tale, in effetti lo è, nel senso ampio, diciamo, del récit francese, della narrazione. È soprattutto, direi, una narrazione lisergica. Mi spiego. Negli anni, a fine anni 40, Albert Hofmann, che era un chimico svizzero, individua una sostanza che è l'acido lisergico, di cui un'ampia fetta di popolazione, almeno a livello più intellettuale o presunto tale, ha fatto uso in anni diciamo negli anni 60, 70 e anche dopo, personalmente mai, ma sono abbastanza attento in quanto ho letto Hoffman e Timothy Leary con attenzione. Timothy Leary è quello che poi ha teorizzato questo. Per cui, diciamo, i neurotrasmettitori vengono ad essere più sensibili. Ecco, io conosco l'autore, conosco Franco Maria Maggi, anche lui è molto lontano dall'uso di ciò, queste esperienze non le ha fatte, però le si sono fatte appunto indirettamente, no? Quindi attraverso mediazioni, attraverso letture, attraverso esperienze condivise, leggendo Allen Ginsberg piuttosto che William Burroughs, eccetera, no? Quindi indubbiamente questo c'è, e fin dall'inizio, questo anche proprio dal punto di vista tematico, vengono dichiarati i due temi di fondo del libro, che sono, e su questo poi dovrò tornare, il giornalismo col suo contraltare, che è la poesia, la creazione poetica, e il, diciamo, l'eros. Ecco, su questo però vorrei dire qualcosa dopo, anche perché così si è aperto una piccola fenditura, diciamo, ma appunto su questo non vorrei dilungarmi ora. Mi premeva dire appunto che è uno stile abbastanza inconsueto, e se è vero, come è vero in parte, che lo stile è l'uomo, sanno la famosa frase di Buffon, che era un naturalista, però si occupava anche d'altro, come giustamente in epoca illuminista si poteva fare e si faceva senza difficoltà. Ecco, indubbiamente è uno stile molto particolare, molto anticonvenzionale e non legato, questo ci tengo anche a sottolineare, alla letteratura italiana più recente, cioè a dire quella che parte, diciamo, dal gruppo 63, ecco, per intenderci, fino ad oggi. Nulla a che vedere con i cannibali, qualcuno se li ricorderà, negli anni 90, nulla a che vedere, ecco, con esperienze letterarie di Carlo, eccetera, che sono conclamate, e che ecco, hanno indubbiamente un loro status definito, no? Ecco, qui è qualcosa di nuovo. Chiaramente ci sono dei punti di riferimento esterni, cioè a dire delle influenze. Chi scriva, molti in questo consesso scrivono, vedo qui alcuni illustri esponenti, chi scriva indubbiamente non scrive senza aver letto, grazie al cielo, diciamo, c'è un background di letture che tutti noi abbiamo e che tutti noi tesaurizziamo, anche quando sembriamo metterle da parte. Ho citato alcune esperienze, soprattutto poetiche, ma non solo, no? La Beat Generation è trasversale, nel senso che include poesia, prosa, performance teatrali più che pièce, il rapporto poesia-musica, eccetera. Ma ancora, ecco, oltre alla Beat, per Maggi vale indubbiamente l'esperienza del simbolismo francese e dell'ermetismo, no? Lo sanno, l'ermetismo parte così convenzionalmente, per una definizione che ha dato Oreste Macri e che è stata accettata pur con delle riserve, qui non entro in merito perché ci allontaneremmo dallo specifico, da tutti, e arriva fino a un poeta e scrittore che mi è particolarmente caro, che è scomparso all'inizio di quest'anno, che è Alessandro Parronchi, diciamo, gli ermetici fiorentini, no? Insieme con Luzzi e Vigongiari. Ecco, questo è un po' per dire l'inizio, poi ci risentiremo un po', sperando che non sia troppo lungo e noioso per loro. Parole stelle. Nei suoi occhi profondi io cercavo il vuoto, i fiori, la vita. Odiavo la sua civetteria, amavo le sue manie e il suo profumo di peccato. Un profumo che stava tra il marcio e il sublime, tra il corrotto e l'onesto. Spesso fare l'amore con Milena era come penetrare una santa sottoposta alle sevizie dell'Inquisizione. Amavo la sua insana ironia. Vivevamo nella stessa caverna, tra nebulose e orchidee avvizzite, magiche sfere di cristallo e sogni conturbanti. La nostra conoscenza talvolta si risvegliava riportandoci nella sfera della normalità. Cercavamo allora di coprire i nostri corpi con lo spirito. Ci scaldavamo i piedi con la bouillie. Ci infilavamo la punta della lingua nelle orecchie ed eravamo uniti come l'edera, due corpi in uno, eccitati e disgustati, due corpi alla disperata ricerca della sinfonia divina. Od un antico chiostro dove poter seppellire ogni nostra perversione. E l'odore delle sue ascelle mi faceva impazzire. La malattia del vivere non riesci a obliarla mai. In ogni istante del giorno ce l'hai lì, pronta a ferirti, con quella sua aria indecente, feroce. Ti costringe a scavi interiori logoranti, inimmaginabili prospezioni, impossibili da gestire nel segno della normalità. E tu, supino, te ne stai a contemplare la luna, solo, con i pugni serrati sul petto. Vorresti accompagnare questa tua debolezza intellettuale con una triste cantilena. Dalle tue labbra trapelano soltanto sibili e rantoli. Non riesci a comunicare a te stesso nemmeno un pensiero. Franz Kafka è un poeta, forse un prete, non un giornalista. Un giornalista è un uomo normale, erba verde, un singolo, una storia in altre storie. Raglia, beve, corre, scopa, mangia, dorme. È lieto quando sa di poter incontrare gente nuova. Ha conosciuto la finitudine dell'essere, ma è un animale moralmente inferiore. Franz Kafka è moralmente superiore perché mira alla felicità, perché sa sedere su un sasso, ritrovare se stesso e Dio nell'immoralità, perché ha dovuto lottare sempre duramente contro entità celesti, Dio e la Madonna, perché soprattutto sa che quando il cuore è pulito si può riposare anche nel fango. Ora la sua vanità è consenziente, gli dice: tu possiedi tutti gli elementi della dolcezza e della misericordia. Sei una parte di eredità dei tuoi antenati. Per questo sei superiore. Puoi avvicinarti al cielo, sfiorare l'assoluto, ma devi abbandonare prima di tutto la tua professione, il tuo mestieraccio. Diventare un uomo degno di sofferenze nell'oceano del nulla, nella tranquillità del sole, nel silenzio della chiarezza. La tipografia. 14 linotype sull'attenti. 14 linotipisti smanacciano sulla tastiera. Passo tutti in rassegna dell'ampio sotterraneo rettangolare. L'aria è soffusa di piombo. Una ragnatela di quasi invisibile pulviscolo sembra avvolgere persino i pensieri più reconditi. Una oscura presenza diventata quasi familiare. Quella cappa di piombo, tanto indifferente, tanto gelida, in verità è perfida e velenosa. Si scompone per gradi. Infinitesime particelle si insinuano dappertutto. La bocca e le narici sono facili pertugi. Il piombo si inocula come un virus nei pori della pelle. Una strana follia pervade l'anima e la mente. Ci invade un'ebbrezza come dopo aver bevuto un bicchiere di Barolo. Qualcosa di vivo, di patologico è penetrato nel cervello. Il cuore è in continua fibrillazione, i polmoni sono gonfi come pneumatici. Ci si sente molto intelligenti. Si prova anche un benessere fittizio. È soltanto sabbia mobile. Morte lenta. Luce psichedelica. Qui tutto è patologico. Il piombo stringe liaison con gli anticorpi. Li inganna. Li sottomette per poi sopraffarli subdolamente. Il saturnismo è sempre in agguato. Quando il mostro manifesta tutta la sua morbilità, è troppo tardi per correre ai ripari. Qualcuno diceva: quello è alcolizzato, beve di nascosto. Ma era l'effetto del piombo. Quanti se ne sono andati all'altro mondo senza vedersi riconoscere la malattia professionale. La chiamavano anche piomburia, un vocabolo meno funesto di saturnismo. Molti tipografi sono scomparsi in silenzio, forse finendo in qualche sperduta tipografia dell'inferno o del paradiso. Qualche volta mi capita di sognarli. Ho imparato a credere, ridere e morire. Ho imparato la crudeltà degli altri per affilare la più, ancora di più la mia. Ad annidare la bontà nelle viscere della malvagità. Franz Kafka, suddito di Acab, con prerogative che io disprezzo, aborro. Io, che quando occorre tormento il mio male, penetro nel mio cervello con la convinzione di uno che non vuole credere al sacrificio. No, no, io non voglio cedere alla superstizione del genio. Ho queste immediate idee che svaniscono nel dubbio. Ho queste macchie che le creature consacrate odiano per paura. Paura dei castighi e dei sensi di colpa. Ho questa mia orribile filosofia che non è la palissiana o irresponsabile. Io credo in quel che faccio. Le mie misure non concedono una subordinazione. Voglio essere profetico. Ecco. Non parlare di doni naturali, ma di fatti concreti. Milena mi è necessaria come l'aria che respiro. Allora come sta a lei la mia poesia? È sospetto morale la mia poesia? La mia forza riposa su terribili domande, domande senza risposta. Cominciano con il mestiere e finiscono con la condizione del mestiere. Ogni mia credenza è legata all'atmosfera di una redazione, alle molecole radioattive dei colleghi, del direttore, dei telefonisti. Piccoli, grandi spiriti, altri da brivido, sposati senza sospetti. Ci sono molte specie di uomini. Uomini, per esempio, che hanno coltivato antichissime sapienze che pochi eletti conoscono. Sono soli. Soli e umili nei loro semplici lavori, fuggono la vita, parlano con Dio, amano la morte. Io, Franz Kafka, sono una tartaruga saggia e nauseante, senza la speciosa aspirazione al piacere fisico. Accarezzo il piacere psichico in tutte le sue multiforme facce e perversioni. Grazie. Paura? Come stare seduto attorno a un morto. Paura di essere appena nato. Sì, perché sei disordinato dentro di te. Sei un giornalista, poi all'improvviso decidi di fare il poeta. Non riesci a conciliare le due attività. Finisci così per subordinare la più importante, giornalismo, alla più enigmatica, poesia. In questo modo diventi un nemico del popolo, un pericolo pubblico, il solito giocattolo nelle mani della divinità. Ma il mondo non è forse un circo? Non siamo tutti pagliacci, reziari e mirmilloni? Allora perché ti meravigli se ho paura di diventare un piccolo cane pazzo? Non mi meraviglio affatto. Dico solo che ti sbagli. Il tuo comportamento è doppiamente immorale. Primo, perché sabota il giornalismo. Secondo, perché vilipende la poesia. Il giornalismo non è immobilismo, è azione. Se occorre, bisogna dare pugni nella schiena, darli con la penna. Questo per il bene esclusivo di chi ti legge. Il giornalismo è la più bella professione del mondo. Forse è antecedente persino alla prostituzione. Se fatto con responsabilità e coscienza, assume un ruolo definitivo di riscatto e di espiazione. Ti pone nettamente in anticipo su tutti gli altri. La poesia, dal canto suo, è troppo gialla per accordarsi col bianco e nero. Vive sulle rovine del mondo, vive di tosse, di catarro, di reumatismi. La poesia è fatta di gente offesa, di settimo cielo. È innegabilmente celeste, è musica nell'occhio del ciclone, è l'angelo che spazza le strade sporche di merda. Non ci si può occupare di essa durante il giorno con troppa serietà. Chi credi siano i poeti? Forse dei santi? Gente superiore perché dice di parlare con Dio? Perché dice di conoscere il dolore nelle sue profondità? Perché parla di anima, di foglie, di cielo, di mare, di terra, di grano, di nulla? I poeti non vogliono rivelare il loro nome perché amano troppo il loro passato. Sono creature con le zampe di farfalla e le ali dell'aquila. Hanno la cera nelle orecchie, come Ulisse, per non essere stregati dalle sirene. Sono spesso assenti con la mente, bellissimi o bruttissimi. Bevono il tè o gli alcolici più velenosi. Hanno lo sguardo stupito. Esplodono repentinamente nell'ombra come i vecchi depravati o le vecchie disperatamente sole. I poeti sono codardi. Sfruttano la propria anima come vili mercanti. Perché ragiono così? Nessuno sa chi sono, cosa voglio? Voglio che nessuno lo sappia. Deve restare un segreto, è orribile. Forse mi dispiace che gli altri non conoscano nulla di me. Voglio imbrogliare, ma chi? Non lo so. Sono imbarazzato con me stesso. Ho assolutamente bisogno di un essere supremo, di una volontà metafisica, di un potere empirico. Forse un Dio, ecco, con cui dialogare nei momenti di noia, di angoscia, di disperazione. Un essere diverso, supremo, forse un ermafrodito. Non un mio simile, insieme col quale stupirmi, di fronte al quale inchinarmi, baciare il suolo che egli calpesta, le caldi piedi, farmi accarezzare o picchiare dalle sue miracolose mani, in nome del quale vivere, costruire, addirittura distruggere. Non fiore, ma cactus nel cervello. Così per spingerlo nell'inferno intellettuale. No, no, non importa, non importa, è tutta improvvisazione. Tu devi dire a voce alta: sono un idiota. Sono un idiotissimo idiota. Come ti senti ora? Meglio. Come una bestia guarita. Ecco, credo che ormai l'essere entrati in medias res, ho dimenticato prima la gradita presenza di Alfredo Rettucci, che è il maestro, diciamo, di tutti gli interpreti, perché è lettura, ma è lettura interpretativa, è lettura d'attori, e diciamo Alfredo è tuttora un maestro, ha dato un impulso e dà un impulso eccelso appunto a questo tipo di lettura interpretativa. Ora, dicevo, siamo entrati in medias res perché? Perché hanno ascoltato, diciamo, vari brani, nel senso proprio letterale del termine, dal testo, che più che appunto un romanzo, dicevo, è una narrazione, no? C'è questo récit, questa espressione francese che rende forse meglio. E tutte le carte sono in qualche modo già in tavola, no? Cioè a dire l'elemento biografico e l'elemento che è non autobiografico, perché Franco Maria Maggi, fra l'altro, ecco, voglio ricordare da anni assieme a Franco Latino, che è qui in prima fila, cura le edizioni Latmark, nel senso sono editori veri, no? L'editore, nel senso così corrivo del termine, è chi pubblica un libro. Invece chi lo cura, diciamo, cura prefazione, postfazione eventualmente, e comunque inserisce il libro in una collana, in questo caso ecco, prosastica o poetica, se vogliamo tenere questa distinzione. Ecco, quest'opera Franco Maria Maggi la porta avanti con Franco Latino da molti anni, però per correttezza questo libro l'ha pubblicato con Bastoggi, che credo sia abbastanza noto a tutti come nome, no? Anche perché evoca parecchio. E ecco, cosa dire ancora? Che appunto le carte sono in tavola, nel senso del disperato amore per il giornalismo e al tempo stesso il rifiuto di una professione che induce e conduce, obbliga quasi alla superficialità, spesso al pressapochismo, all'inesattezza, al così, addirittura a errori anche clamorosi, no? Anni fa, non moltissimi anni fa, credo fosse un giornale locale, ecco, riportando un fatto di cronaca nera, c'era addirittura una forse nell'occhiello dell'articolo c'è il riferimento a una persona defunta in un incidente stradale, poi appunto nel corso dell'articolo, seppure la notizia era quella, cioè quella della morte della persona appunto coinvolta nell'incidente, c'era tutta una perifrasi che in qualche modo contraddiceva diciamo l'assunto di fondo. Quindi, per dirvi, adesso non ricordo quali fossero esattamente le espressioni, ma ecco, quindi anche la dromologia, quindi l'accelerazione folle dei ritmi, dei tempi, che naturalmente contraddice con quello che hanno sentito questi monologhi che stanno tra poesia, prosa e riflessione, non diciamo filosofia, perché lì è un ambito più tecnico, ecco, se almeno insomma negli ultimi decenni la filosofia ha assunto uno status epistemologico che è più determinato, quindi non, ecco, però a livello per esempio di massime, penso a La Rochefoucauld, eccetera, questi grandi moralisti, epigrammisti, eccetera, indubbiamente ci siamo, o anche nel senso non del tutto, insomma, di certa filosofia, per esempio stoica o altra, no? C'è il tema fortissimo appunto dell'eros e questo rapporto che c'è tra l'eros e l'assoluto Dio, variamente inteso, qui naturalmente le credenze e le appartenenze di ognuno di noi giocano un ruolo fondamentale. Se volessimo trovare dei punti di riferimento esterni, appunto ancora una volta, qui ci sarebbe da parlare di Georges Bataille, che sicuramente molti di loro conoscono, o Pierre Klosowski, che come scrittore e come saggista ha scritto cose fondamentali su questo, no? Su come, del resto è un tema molto attuale, no? Anche tutta la riscoperta, per esempio, delle sante anoressiche o ecco, dell'esperienza femminile. Questa grenzlinie, no? Questa linea di frontiera estrema, diciamo, che va dalla deprivazione di sé all'amore incondizionato che ha evidentemente là una declinazione mistica. Santa Teresa de Avila in questo senso è assolutamente emblematica, no? Ma non solo. San Juan de la Cruz, per esempio, no? San Giovanni della Croce era il mistico che particolarmente era stato studiato dal predecessore dell'attuale Papa. Giovanni Paolo II si era occupato molto di questo. Ecco, però naturalmente questo amore può avere anche una declinazione erotica. Qui, ecco, su questo vorrei spendere qualche parola. Mi scrive l'amico che appunto non può essere presente per questioni di salute, Silvano De Marchi, di dire per inciso, testuale, De Marchi certamente non approva queste pagine. Qui Ecco, indubbiamente il collega De Marchi ha avuto un ripensamento su questo, ma vorrei citare una recensione, fra l'altro ecco, non richiesta, insomma, che il professor De Marchi ha scritto sua sponte, cioè non c'è stata nessuna pressione da parte di nessuno per fargliela scrivere, che invece è decisamente favorevole ed è pubblicata qui, eventualmente a disposizione, nel numero 83, anno sedicesimo della Nuova Tribuna Letteraria. No? Quindi qui non vorrei tediare, ma dice per esempio: le pagine più convincenti restano quelle dell'ambiente giornalistico di 50 anni fa, in cui dovevano lavorare gli addetti alla stampa. Poi, vabbè, c'è è proprio dello scrittore Bolzanino offrirci pagine di tale verità da apparire surreali, avvalendosi di una scrittura concitata, cruda, coinvolgente e spesso sconvolgente, ma artisticamente efficace e di elevato spessore. Ecco, qui, ecco, coinvolgente, spesso sconvolgente, artisticamente efficace e di elevato spessore, non credo sia un giudizio negativo. Quindi, ecco, in qualche modo il professor De Marchi contraddice se stesso, può essere un'ulteriore valutazione, però ecco, confligge con quanto già scritto in precedenza. Ancora, perché Franz Kafka? Perché la situazione del